6. Ascolta e controlla. 1. Avrei parlato volentieri con Giorgio, ma in quel momento era occupato. 2. Saremmo rimasti volentieri a cena con gli amici, ma avevamo già un altro impegno. 3. Avrebbero comprato quella casa, ma il prezzo era troppo alto. 4. Non sapevo che lei sarebbe partita così presto. 5. Sarebbe stato necessario telefonargli subito. Perché non l'hai fatto? 7. Non ho risposto alla domanda. Era troppo difficile. Tu avresti saputo dare la risposta giusta? 8. Non sapevo del vostro arrivo, altrimenti vi avrei aspettato volentieri alla stazione. 9. E tu? Che cosa avresti fatto al posto mio? 10. Secondo me sarebbero tornate volentieri in treno.